Purtroppo la governance che è stata costruita, il modo in cui si è ricostruito non ha dato loro, per carità, non ha dato loro degli spazi di democrazia in cui esprimere le loro opinioni e le loro valutazioni. E lentamente hanno sentito anche oltre quello che era vero.